La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al romanzo di Roberto Riccardi, La foto sulla spiaggia, appena pubblicato da Giuntina. Un racconto che ci porta ancora una volta agli orrori della Shoah. Vite e affetti vennero spezzati nell'inferno dei lager nazisti. Ospite ai nostri microfoni l'autore Roberto Riccardi, ufficiale superiore dei carabinieri e giornalista. Ma ora la parola va a Dino Pesole. Due storie parallele, quella di un padre, Simone, deportato ad Auschwitz nel 1944 insieme alla moglie Ella e alla figlioletta, di cui perde le tracce e che teme siano morte, e quella della figlia Alba che prende nel romanzo le sembianze di Sara, una bambina che cresce nell'Italia povera di risorse e ricca di speranze degli anni 50. Due storie che fanno del romanzo di Roberto Riccardi, La foto sulla spiaggia, appena pubblicato da Giuntina, un racconto avvincente, emozionante, che ci porta ancora una volta a riflettere sugli orrori della Shoah e di quante vite, di quante storie personali, di quanti affetti vennero spezzati nell'inferno dei lager nazisti. Ferite che certo non si ricompongono nell'animo di quei pochi che ne sono usciti vivi. Buonasera e benvenuto, Riccardi. Buonasera a voi e grazie per l'invito. L'idea del romanzo, lei scrive nella nota al libro, le è venuta pensando a Sissel Vogelmann, una bambina morta ad Auschwitz il 6 febbraio del 1944, insieme alla madre Anna Disegni. Aveva appena 8 anni e mezzo. Il padre, Shulim, come Simone Viterbo nel libro, sopravvisse, tornò a Firenze ed ebbe la forza di crearsi una nuova famiglia. Ascoltiamo insieme questo passaggio del suo libro. A Sissel, al 1,5 milione di bambini sterminati dai nazisti, a tutti i bambini travolti dagli orrori della Shoah, è stato reciso il cammino. La Sara del romanzo poteva diventare Alba, una ragazza unica al mondo e al tempo stesso normale, che avrebbe coltivato sentimenti puliti. Un essere umano che non avrebbe fatto del male a nessuno, avrebbe chiesto solo di amare e di essere amato. Nella quotidiana lotta per la sopravvivenza nel lager nazista, la fame rappresentava il nemico peggiore. Debilitarsi era un passo verso la morte. La sera, se c'era una selezione, ai più deboli prendevano il numero. Lo segnavano su un foglio e la mattina dopo quel numero veniva chiamato. Il prigioniero che lo portava sul braccio, anziché al lavoro, andava al gas. Solo il caso, a volte la fortuna, di essere inseriti in una lista come quella di Oskar Schindler poteva salvare la vita. La resa incondizionata della Germania è stata appena annunciata. A mezzanotte la guerra finirà ufficialmente. Domani inizierete a cercare notizie dei sopravvissuti delle vostre famiglie. Nella maggior parte dei casi non li troverete. Dopo 6 lunghi anni di omicidi, le vittime avranno il cordoglio di tutto il mondo. Noi siamo vivi. Molti di voi sono venuti da me a ringraziarmi. Ringraziate voi stessi. Ringraziate l'impavido Stern e alcuni altri che, preoccupati per voi, hanno affrontato la morte ogni istante. Io sono un membro del partito nazista. Sono un fabbricante di munizioni varie. Sfruttatore del lavoro di schiavi. Io sono un criminale. A mezzanotte voi sarete liberi e io braccato. Rimarrò con voi fino a 5 minuti dopo la mezzanotte, allo scadere dei quali, e spero mi perdonerete, dovrò fuggire. Le vite si separano nell'inferno dei lager, anche per caso. Avviene così che Simone, nel romanzo di Roberto Riccardi, all'arrivo ad Auschwitz viene sottoposto dai nazisti a una prima sommaria ricognizione, se così si può dire. Se ritenuto non abbastanza forte per lavorare, viene spedito nella fila di destra e dunque direttamente nelle camere a gas. Se può essere in qualche modo utile, nella fila di sinistra. Può evitare la morte, ma è destinato a soffrire differenze inaudite. Simone la scampa perché conosce il tedesco, ma nel suo cuore, scrive Riccardi, e nei suoi pensieri c'era altro, una donna, una bambina. Ecco, Riccardi, ci racconti come si snoda la drammatica vicenda che ha scelto di raccontare. Il romanzo ha un tono, diciamo, su due registri. C'è quello molto drammatico nei capitoli che raccontano Simone, la sua prigionia, in cui, mentre lotta per sopravvivere, non fa che interrogarsi sulla sorte della moglie e della figlia. E poi invece c'è un tono più lieve, più delicato, nel raccontare la crescita di una bambina che ha perso la memoria delle sue origini e che incontra l'amore, incontra l'amicizia, incontra la spensieratezza della gioventù. E però viene il momento in cui i ricordi iniziano ad affiorare e allora va sulle tracce del proprio passato, un passato doloroso. Ecco, lei è colonnello dei Carabinieri, giornalista, dirige la rivista Il Carabiniere, scrittore. Qualche anno fa, nel 2009, ricordo proprio qui a Radio 24, abbiamo parlato del suo precedente libro, Sono stato un numero, Alberto Sed racconta, che ha vinto il premio Acquistoria. Ancora una storia drammatica di deportazione. Ecco, a cosa si deve, diciamo, questo interesse anche storiografico, oltre che di narratore e di scrittore, per questa grande tragedia? L'origine di un particolare interesse è stato proprio l'incontro con Alberto Sed, l'ex deportato di cui ho scritto la biografia con il mio primo libro. Indubbiamente in un momento in cui uno entra in contatto con un ex deportato e quindi questo capitolo della storia dell'umanità cessa di essere tale in qualche modo, non è più un libro di storia, un documentario, un film, ma diventa la voce di una persona che uno ha di fronte con il tatuaggio sull'avambraccio sinistro e tante ferite molto più profonde nell'anima. Ecco, un incontro così può cambiare la vita o comunque può condizionare fortemente un percorso anche di narrazione, come nel mio caso, per cui insomma questa storia mi è rimasta dentro e allora c'è ancora qualcosa da dire al riguardo. Ecco, passano gli anni, si tende, se vogliamo, anche a rimuovere quel che è accaduto nell'abisso della Shoah. I superstiti non ci sono più, ma ci sono i familiari e anche i libri possono servire a tener viva la memoria, a evitare il pericolo dell'oblio. Dal suo punto di vista, anche un romanzo può servire a questo, oltre che i libri puramente scritti dagli storici? Ma il libro, proprio il romanzo, è un omaggio a una bambina che non è potuta crescere. E quindi vedere sulla copertina del romanzo la foto di Sissel, bambina, a distanza di quasi 70 anni da quei fatti è sicuramente un modo per ricordarlo. Sissel si è fermata lì, però c'è un fratellino mancato di Sissel, che è un uomo che oggi, vedendo quella copertina, sicuramente prova un'emozione molto più forte di chiunque altro e vede anche in questo libro un modo per ricordare Sissel. Ogni tanto in Europa affiorano, come dire, delle negative tentazioni, chiamiamole revisioniste. Si fa fatica, d'altro canto, a credere che tutto questo sia avvenuto. Ma nell'Italia che stiamo vivendo oggi, è possibile che ci sia anche ancora qualcuno che metta in discussione, in Italia o in Europa, che metta in discussione l'enormità di questa tragedia che causò 6 milioni di morti? Beh, accade, per fortuna accade raramente. Certo, a fronte di una mole così importante di documenti, di testimonianze, di registrazioni, di foto, di filmati, insomma, sembra incredibile che si possa dubitare della veridicità di un fatto storico come questo, e quindi ci si interroga anche sui motivi che inducono una persona a negare o a tentare di rivedere, insomma. Purtroppo le risposte alla domanda perché si nega sono poco belle, nel senso che fa un po' pensare a un'ondata così di neonazismo mascherato, oppure così a semplice esibizionismo, voglia di mettersi in mostra con una tesi che sia diversa da quelle più normali, più di senso comune, accreditate. Ecco, nello scorrere le pagine del suo libro, le parti relative alla lunga sofferenza di Simone nel lager nazista, si ha proprio la percezione che lì la vita acquisiva un senso che per noi oggi è del tutto incomprensibile. Lì la vita era veramente appesa a un fatto, a un elemento che poteva determinare la scelta in un senso o nell'altro, e dunque anche questo acquisisce una sua drammaticità nel racconto. Beh, gli ex deportati sicuramente sono andati più in là di tutti noi nella valutazione e nella profondità di pensiero rispetto ai significati della vita e al valore della vita. Chi è tornato da un'esperienza come quella, da Auschwitz, ha sicuramente una considerazione diversa anche di ciò che può essere un problema, di ciò che deve essere considerato un problema e cosa invece in realtà non lo è. Io questo l'ho sperimentato anche frequentando Alberto Sed e altri ex deportati che poi ho conosciuto dopo l'uscita del primo libro, e devo dire che si avverte sempre questa differenza di valutazione, di pensiero. Hanno davvero visto quello che occhi umani speriamo non vedranno mai più. Grazie a Roberto Riccardi e veramente complimenti per questo bel romanzo, La foto sulla spiaggia. Buona serata. Grazie, buona serata.